Pablo Picasso, raccontato da Marco Carminati. Il 1906 è per Pablo Picasso un anno decisivo, perché muore Cézanne, Paul Cézanne. Picasso dirà: è morto il mio unico maestro. Perché dice questo? Perché Picasso comprende che Cézanne è stato il più grande e moderno pittore del suo tempo, in quanto ha cominciato a dipingere le sue opere usando il colore per realizzare dei nuclei. Quindi si accorge Cézanne che la pittura è fatta di quadrati, di piccoli quadrati contrapposti. Ecco, davanti a questa riflessione, Picasso parte per una svolta di nuovo importantissima nella sua percorso pittorico. È il momento in cui si affaccia infatti al cubismo, cioè porta all'estrema conseguenza questa intuizione di Cézanne. Le opere d'arte si possono comporre con elementi geometrici. È il momento magico e fondamentale delle Damoiselles d'Avignon, che è il pezzo più importante del periodo cubista. Però Picasso non si accontenta, va avanti in questa scomposizione totale dell'immagine fino a non farci più riconoscere il modello iniziale. Perché? Perché dice che noi dobbiamo lavorare con la mente. Diventa un lavoro concettuale quello di guardare un quadro, non è più un piacere estetico. E siamo davanti a quadri come L'uomo con la mandola, che è un dipinto realizzato da Picasso nel 1911, oggi conservato al Museo Picasso di Parigi, dove naturalmente noi non vediamo più nell'uomo, nello strumento musicale, vediamo solo delle linee scomposte, e siamo davanti evidentemente alla prima grande momento di concettualità dell'arte, cioè noi dobbiamo immaginare un linguaggio che non è più quello delle figure, dei contorni, dei colori che abbiamo ereditato da 500 anni di tradizione. Picasso ci mette davanti una nuova possibilità che è tutta mentale, quella di comprendere la struttura intima delle opere d'arte. Pablo Picasso, capolavori dal Museo Nazionale Picasso di Parigi, dal 20 settembre al Palazzo Reale di Milano. Info radio24.it.